Allora, cominciamo la quarta lezione. Lui è Stefano De Cenzo, è un insegnante delle scuole superiori qua a Perugia, e ha fatto una tesi di laurea appunto sui pellagrosi del manicomio di Santa Margherita, se non sbaglio, a Perugia, e dunque ascolteremo questo studio che è arricchito da varie linee di interpretazione, se non sbaglio, economiche e anche sociali, e lascio la parola a Stefano. Sì, allora intanto diciamo che rispetto al titolo che avete letto in qualche misura, quello era più o meno il titolo della tesi mia, che sale ormai una ventina d'anni fa. E dico questo non per mettere un po' le mani avanti, ma perché comunque insomma poi dopo in realtà non ci sono molte novità, diciamo, in termini di ricerca storica rispetto alle questioni che tratteremo stasera. Io partirei intanto dalla definizione della malattia in esame, che è appunto la pellagra. Pellagra letteralmente significa pelle ruvida, ed è una malattia endemica. Si sente? No? Allora abbiamo bisogno del microfono. Ti dicevo appunto che io partirei da una definizione della malattia. La pellagra è una malattia endemica, dicevo il nome letteralmente significa pelle ruvida, perché i primi sintomi di questa malattia colpivano soprattutto la pelle, quindi fenomeni diciamo di dermatite, potremmo dire oggi di desquamazione molto forte della pelle. È anche una malattia endemica, nel senso che la sua caratterizzazione, perlomeno storicamente, è quella di malattia territorialmente diffusa e che si caratterizza appunto per una sua specificità territoriale. Se voi oggi prendete qualunque, diciamo, fate una ricerca o in rete, oppure prendete così un manuale di medicina, troverete come definizione quella di avitaminosi. Cioè una carenza vitaminica, per la precisione la vitamina in questione si chiama niacina, ed è una vitamina detta anche pellagra PP, pellagra preventiva, che appunto, diciamo, questa definizione è dovuta alla scoperta di questo fattore più o meno nel 1937. Oggi la malattia praticamente è una malattia quasi inesistente, però insomma nella metà del Settecento, tutto l'Ottocento ha avuto una diffusione molto forte. È anche una malattia sociale, nel senso che la storia di questa malattia è legata fondamentalmente alla diffusione della cultura del mais. Il mais, lo saprete sicuramente, insomma, si impone come cultura soprattutto a partire dal 600, si impone come cultura di rotazione, nel senso che in gran parte d'Europa, laddove insomma, si trovano le condizioni favorevoli per impiantare questa cultura, si comincia a utilizzarla soprattutto nella rotazione biennale, cioè frumento mais. Perché offriva tutta una serie di vantaggi? Intanto perché aveva una resa, diciamo, molto più elevata rispetto al frumento, e poi perché consentiva anche l'alimentazione per quello che riguarda le foglie, insomma, della pannocchia degli animali. Ora, il problema è che questa era una cultura molto depauperante, insomma, molto depauperante del terreno. E soprattutto accade che fondamentalmente, laddove si sviluppa questo tipo di cultura, si crea una sorta di doppio binario, nel senso che il frumento come coltura pregiata poi in gran parte viene destinato al mercato e il mais rimane come alimento principale dei contadini. Ora, questa cosa era abbastanza evidente fin dall'inizio. E, diciamo, le prime manifestazioni registrate di pellagra in Italia, la provincia italiana, si hanno nella seconda metà del Settecento nella regione del Lombardo-Veneto. Ma nonostante, diciamo, questo legame tra mais e tra pellagra e alimentazione risulti evidente sin dall'inizio, però poi insomma non si riesce per un lungo periodo a agire su questo meccanismo. Non si riesce fondamentalmente per un motivo molto semplice, perché agire su questo meccanismo avrebbe significato modificare profondamente non solo i sistemi agricoli, ma anche, insomma, per dirla così, i rapporti sociali di produzione. E questo spiega perché poi in realtà la malattia, anche se diciamo cresce fino alla metà dell'Ottocento, cresce moltissimo, dopodiché andrà, dopo la crisi, diciamo, la grande depressione della fine dell'Ottocento, che in qualche modo rimodella un po' anche il volto delle campagne italiane, andrà lentamente, progressivamente spegnendosi fino, diciamo così, a scomparire all'indomani della Grande Guerra. Poi ci sarà una piccola recrudescenza durante il fascismo, ma di fatto il fenomeno si può vedere scomparso. Dicevo, è una malattia che colpisce prevalentemente le regioni dell'Italia settentrionale, soprattutto la Lombardia e il Veneto, ma poi progressivamente scende a colpire anche le aree mediterranee. Questo spiega anche la sua notevole diffusione proprio nella regione dell'Umbria. Insomma, allora se guardiamo a quel periodo è più corretto parlare di provincia unica dell'Umbria, perché questa era la denominazione almeno sino agli anni 20. Dicevo, se questo legame è chiaro, però se noi andiamo a vedere in qualche modo come si sviluppa il dibattito medico, il dibattito eziologico relativamente a questa malattia, noi scopriamo delle cose di tipo diverso, nel senso che il primo medico che in Italia comincia ad affrontare seriamente il tema della pellagra è un bresciano, si chiama Ludovico Ballardini, siamo intorno agli anni 40 dell'Ottocento, studia in profondità questa malattia e elabora, diciamo, una doppia teoria. Cioè, da un lato ritiene che questa malattia sia di fatto una malattia da carenza alimentare, non è ancora in grado di stabilire appunto che si tratta di una carenza vitaminica, pensa piuttosto a una carenza di glutine presente, diciamo, nei vari cereali, ma meno presente nel mais. Contemporaneamente però propone anche un'altra soluzione, che è quella, diciamo, della presenza di un agente patogeno nel mais, di un fungo, che appunto renderebbe, diciamo, nocivo il mais e quindi comprometterebbe la salute appunto di chi fondamentalmente si alimenta mais. Ora, tenete conto che l'alimentazione contadina dell'epoca era un'alimentazione povera e assolutamente non varia. Quindi, naturalmente, nelle aree, soprattutto che dicevo all'inizio, cioè la Lombardia e il Veneto, il mais veniva assunto soprattutto sotto forma di polenta, ma anche sotto forma di pani, che poi molto spesso, insomma, venivano utilizzati per più giorni. Questo doppio binario poi viene in qualche modo portato avanti e dà vita a due scuole, diciamo così, opposte. Appunto, la scuola che predice l'aspetto, diciamo, della carenza, che trova un suo rappresentante significativo in un altro medico, Filippo Lussana, e invece la teoria, diciamo così, tossicozeista, che trova come suo esponente principale proprio a livello nazionale Lombroso. E sarà soprattutto la linea lombrosiana quella che in qualche modo si imporrà. Si imporrà e, diciamo così, detterà un po' anche le linee dell'intervento del nuovo Stato italiano, del giovane Stato italiano, perché tra l'altro, insomma, il problema era un problema di vaste dimensioni. Come interviene? Lo Stato interviene, diciamo, attraverso, inizialmente a fatica, soprattutto, diciamo, inizialmente l'esigenza è quella soprattutto conoscitiva, cioè di quantificare il fenomeno. D'altronde siamo la prima inchiesta sulla pellagra in Italia è del 1878, si è da poco insediata la sinistra storica, siamo nella fase, insomma, delle grandi inchieste conoscitive. Ne seguiranno poi un'altra nel giro di 3 anni, nel 1881, e poi una, diciamo, più complessa nel 1899. Si va a ricercare l'entità del fenomeno. Sono inchieste importanti, vengono pubblicate, sono pagine e pagine, però se noi andiamo a vedere, diciamo così, in realtà l'attendibilità di questi dati è molto limitata. Molto limitata perché? Perché intanto la primissima inchiesta in realtà altro non è che, diciamo così, sono tutte promosse dal Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio dell'epoca. In realtà se guardiamo bene la prima inchiesta altro non è che una elaborazione statistica, dei pochi dati certi, e i pochi dati certi che si avevano erano quelli dei ricoveri nelle strutture coercitive, gli ospedali e soprattutto i manicomi. Poi su questo aspetto insomma dedicheremo più spazio avanti, più avanti. Dopo naturalmente in qualche modo gli strumenti di indagine si affinano, si cerca di coinvolgere i medici condotti, gli ufficiali sanitari ufficiali. Nel frattempo sono state istituite anche delle commissioni provinciali chiamate appunto per l'agrologica, insomma si riesce ad avere un'attendibilità più certa, ma tutti gli storici che hanno studiato, parlo degli storici contemporanei che hanno studiato appunto questo fenomeno, concordano nel dire che comunque si tratta al massimo della punta di un iceberg, insomma se volessimo i dati sono dati molto, molto più ampi. Ecco, apro diciamo una breve parentesi sulla storiografia. Come dicevo all'inizio, questa mia ricerca è ormai datata, ma si colloca più o meno in un periodo in cui gli studi di questo tipo in Italia sono stati molto, molto ricchi e molto importanti. Si è cominciato diciamo, a studiare questi fenomeni più o meno intorno alla metà degli anni 70, e poi si è proseguito fino alla metà degli anni 80. E erano anni in cui, in qualche misura, gli stimoli che venivano dalla società in generale, poi sono un po' le cose che anche avete visto fin qui a proposito della riforma psichiatrica, si riflettono anche nella ricerca storiografica. Tra l'altro erano anni importanti anche per quello che riguarda la ricerca dell'elaborazione della storia sociale. Ecco, è dentro questo decennio, cioè tra la metà degli anni 70 e la metà degli anni 80, che si collocano i lavori più significativi che a tutt'oggi restano quelli. Poi ho portato anche una piccola bibliografia, come avevate chiesto, semmai può servire per approfondire. Dicevo, allora, intanto lo Stato dà questo tipo di risposta, cioè una risposta conoscitiva, però naturalmente questo non basta, insomma c'è bisogno di intervenire in qualche modo. E come intervenire? Allora, visto che non si ha la forza o la volontà di intervenire, diciamo, sul piano economico-sociale direttamente, si interviene attraverso una serie di strumenti. Strumenti che però si rivelano abbastanza, diciamo, non voglio dire fallimentari, ma certamente non riescono a risolvere il problema. Gli strumenti sono per esempio l'istituzione di locande sanitarie o di cucine economiche, cioè erano dei luoghi dove di fatto venivano somministrati dei pasti che dovevano appunto integrare la dieta dei contadini. Oppure vengono istituiti dei villagrosari. Per la grossaria hanno delle strutture diciamo a metà tra le strutture di ricovero e le strutture diciamo di accoglienza in qualche misura. Anche lì prevalentemente si cerca di agire sull'alimentazione, ma poi non so, anche viene promossa la diffusione di essiccatori, di forni dove appunto i contadini potevano portare i loro pani per cuocerli al meglio. Insomma, queste sono le risposte principali che vengono date, ma nessuna, dicevo, di queste risposte si dimostra particolarmente efficace. E se poi andiamo a ben vedere, il luogo che più di ogni altro insomma, serve ad accogliere quella grossa è appunto il manicomio. Siamo poi, diciamo così, al punto sostanziale, no, anche di questa comunicazione. Perché il manicomio? Io dicevo all'inizio che la pellagra si manifesta soprattutto come dermatite, ma non si manifesta solo in questo modo. Infatti, sempre se vogliamo ricercare una definizione, troverete anche che il morbo viene definito come malattia delle 3D. Allora, la prima è appunto la dermatite. La seconda esiste per diarrea, scusate, ma questo è, cioè nel senso che poi la malattia colpiva soprattutto l'apparato gastroenterico, diciamo nello stadio intermedio, e la terza esiste per demenza. perché nello stadio appunto più avanzato la malattia dava luogo a fenomeni, diciamo, di follia. Questo, ecco perché poi i pellagrosi nello stato più avanzato venivano portati direttamente a Danilo. E, chiaramente, diciamo, seguire un po', come io ho tentato di fare allora, insomma, il cammino, insomma, la sorte che attendeva questi sventurati all'interno del manicomio, naturalmente dimostra ancora una volta come il luogo fosse assolutamente, assolutamente non adatto. Ecco, mi limito, non voglio riempirvi di numeri perché sarebbe inutile. Diciamo che in 30 anni di ingressi, perché dal 1880 al 1910, quando più o meno, se noi andiamo a vedere le statistiche, ogni anno la percentuale di ricoverati al manicomio di Perugia che presenta una diagnosi in qualche modo legata alla pellagra non scende mai intorno al 25%. Nel 1880, che è l'anno in cui il fenomeno qui esplode in tutta la sua gravità, siamo addirittura sopra il 40%. Quindi, diciamo, di queste 2000 persone che più o meno vengono ricoverate nell'arco di 30 anni, il 41%, scusate un po' gli occhiali, muore in manicomio, il 14% viene destinato a ricoveri di mendicità, cioè di fatto risulta cronico, si prende atto che non è possibile, diciamo, ottenere alcun miglioramento, quindi lo si destina ad altre strutture. Ecco, questo dà chiaramente la dimensione anche del dramma. A questo punto forse vale la pena, diciamo, di dire un paio di cose relativamente appunto poi al manicomio, soprattutto al manicomio di Perugia, poi vedremo gli aspetti, diciamo, più propriamente forse interessanti, credo, del dibattito medico, insomma, di come la scienza psichiatrica si rapportasse rispetto a questa malattia. Allora, il manicomio di Perugia penso che più o meno tutti sappiate dove si trovava. Nella zona di Santa Margherita, dove adesso appunto c'è una scuola, il liceo Galilei, ci sono diverse strutture dell'università straniere. Ecco, il manicomio qui già nasce nel 1824, quindi siamo ancora in epoca pontificia. La congregazione degli ospedali Rignichi riceve un edificio che era un ex convento, l'ex convento di Santa Margherita, e si decide di trasferire lì, diciamo, i folli che prima venivano tenuti insieme ad altri presso i locali di Fontenova. Quindi si tratta ancora di un edificio soltanto. Dopodiché, nel giro di una ventina d'anni, siamo sempre intorno alla metà degli anni 40, viene costruita, vengono acquistati dei terreni attorno a questo porto centrale e viene realizzata una colonia agricola, cioè vengono messi a coltura dei campi. Questo perché? Perché questo rispondeva in qualche modo all'idea che si aveva allora del manicomio. Qui apro un'altra piccola parentesi. Allora, diciamo che la scienza, questo almeno riconosce la storiografia italiana ed europea che se ne occupa, diciamo che la scienza psichiatrica così legata all'istituzione manicomiale nasce alla fine del Settecento in Francia. Il padre, diciamo, riconosciuto iniziatore della psichiatria manicomiale è un medico francese, Philippe Pinel, che adesso non ricordo l'anno preciso, ma insomma intorno alla fine del Settecento, quindi siamo ancora in un clima tardo illuminista, ecco, non siamo ancora, no, in un clima positivista, viene nominato medico di un ospedale generale a Bicêtre in Francia. Allora, gli ospedali generali altro non erano che una sorta di cronicario, a metà tra il carcere, il cronicario, erano stati istituiti per la prima volta intorno alla metà del Seicento, da Lucio. In questi luoghi praticamente, insomma, le condizioni di vita erano assolutamente deprecabili. Se me lo consentite, leggo soltanto una testimonianza perché penso possa essere utile. breve. La testimonianza è del 1772, in realtà questa descrizione è un rapporto che una commissione medica svolge presso l'Hôtel Dieu di Parigi. L'Hôtel Dieu era un'altra struttura di questo tipo. Allora, la regola generale dell'Hôtel Dieu, forzata da un difetto di impianto, è quella di collocare molti letti nelle sale, di mettere 4-5 malati in uno stesso letto. I commissari hanno visto i morti mescolati ai vivi, sale i cui passaggi sono stretti, dove l'aria ristagna perché non può essere rinnovata e dove la luce non entra che debolmente carica di vapori umidi. I commissari hanno visto inoltre i convalescenti messi nelle stesse sale dove ci sono i malati, gli agonizzanti e i morti, costretti ad uscire a gambe nude estate e inverno per respirare l'aria all'esterno sul ponte San Carlo. E si hanno visto i convalescenti in una sala al terzo piano, alla quale non si può arrivare che passando attraverso la sala dove ci sono i valiosi. La sala dei folli è contigua a quella dei disgraziati che hanno subito le più crudeli operazioni, che non possono aspettarsi il riposo dalla vicinanza di questi insensati, le cui grida frenetiche si fanno sentire notte e giorno. Spesso ci sono nelle stesse sale malati contagiosi e non, le donne valiolose con le febbricità. La sala operatoria, dove si trattano, si tagliano, si amputano membra, contiene alla stessa maniera quelli che si operano e che devono essere amputati e quelli che lo sono già. Le operazioni si fanno nel centro della sala, si vedono questi preparativi del supplizio, si sentono la grida del supplizio. Chi deve essere operato l'indomani ha davanti a sé il quadro delle sue future sofferenze e chi è passato attraverso questa orribile prova si può pensare come deve essere profondamente scosso da queste grida di dolore. Questi terrori, queste emozioni, egli le riceve in mezzo alla complicanza delle infiammazioni, delle suppurazioni, con gran pregiudizio della sua ripresa e a rischio della sua vita. La sala di San Giuseppe è consacrata alle donne gravide, legittime e facili costumi, sane o malate, sono tutte assieme. 3 o 4 in questo stato dormono nello stesso letto esposte all'insonnia, al contagio delle vicine malate, con i pericoli per i nascituri. Le donne sgravate sono pure riunite in 4 o 5 in un letto, ognuna in una fase diversa del corpo. Il cuore si stringe alla sola idea di questa situazione, in cui esse si infettano reciprocamente. La maggior parte muore e le altre escono stremate. 1000 cause particolari si aggiungono alle cause generali e costanti che rendono insalubre l'aria e costringono a concludere che l'Hôtel Dieu è il più insalubre e il più scomodo di tutti gli ospedali e che su 9 malati ne muoiono 2. Ecco, allora una precisazione. L'Hôtel Dieu in realtà era proprio un ospedale, cioè non era un ospedale, c'era stato un incendio, era andato a fuoco. Allora, questa era la situazione, diciamo, in Francia alla fine del Settecento. Poi c'erano anche appunto gli ospedali generali, quelli che dicevo prima. Pinel riceve la direzione di uno di questi ospedali e decide di cambiare. Intanto libera simbolicamente dalle catene, perché così venivano tenuti i fogli, dalle catene i fogli, questo atto in qualche modo viene considerato come l'inizio della psichiatria. Ecco, Pinel, diciamo ancora nell'impostazione pineliana, prevalgono diciamo, 2 linee. Da un lato comincia a delinearsi l'idea che la scienza psichiatrica debba costruire un proprio codice, diciamo, no? Un proprio sapere, e quindi si comincia a lui tenta di costruirlo soprattutto attraverso l'osservazione clinica quotidiana, giorno per giorno. Lui dice soltanto così è possibile cogliere effettivamente il grado della malattia e poter proporre una cura. Nello stesso tempo però gli ritiene, diciamo così, fondamentale un approccio di tipo morale, se si intende, non certamente diciamo dei discorsetti, non è questo il punto, no? Quanto piuttosto la creazione diciamo di un sistema di regole molto rigide alle quali devono essere sottoposti i folli comunque liberati dalle catene e che metta in piedi un sistema diciamo di premio e punizione. Tutto questo viene realizzato attraverso diciamo, una struttura fortemente gerarchica che vede al vertice il direttore del manicomio, no? Pinel parla anche della necessità diciamo così, del fatto che il direttore debba avere determinate caratteristiche, no? Quindi non solo di personalità ma anche fisiche, debba essere un uomo in qualche modo energico, insomma con forza, in grado di intervenire anche diciamo fisicamente, anteponendo la propria persona dove c'è bisogno, e poi tutto un sistema che va, diciamo, che passa attraverso gli assistenti e arriva fino ai semplici sorvegliati. Questo è, diciamo, l'aspetto morale. A questo aspetto si lega anche la grande importanza che viene data al lavoro, cioè il lavoro come momento in qualche modo rieducativo, un momento rieducativo. D'altronde questa, se vogliamo, non era quella del lavoro, non era una novità, nel senso che comunque, no, è già, diciamo, a partire dal tardo Cinquecento, ma poi soprattutto nel Seicento, io penso in particolare alla creazione del workout in Inghilterra, no? In qualche modo il momento in cui, diciamo, Alà si impone, comincia a imporsi pian piano il capitalismo, diciamo così, no? Si insiste sulla necessità del lavoro come forma rieducativa e di controllo. Ecco, in questo quadro, in questo, diciamo, impianto che ho provato a tracciare proprio molto sommariamente, il manicomio, il luogo, assume una funzione centrale. Cioè, non è semplicemente il luogo dove ricoverare i fogli e tentare di curarli, ma è il fulcro della terapia stessa. Questa è l'idea di fondo, diciamo, della psichiatria così come la intende Piano. Cioè, il manicomio è la terapia, perché un altro, diciamo così, caposaldo della sua riflessione è quella dell'isolamento, cioè il folle va isolato. Innanzitutto va isolato, diciamo, dal contesto familiare, dal suo contesto familiare, perché questo in qualche modo potrebbe, no? Perché è lì che in qualche modo si è generata la follia. Ma non è solo questo, va isolato anche all'interno della struttura manicomiale, perché è importante riconoscere i diversi tipi di follia e quindi separarli per poterli studiare separatamente. Poi naturalmente c'è anche, diciamo così, l'isolamento che si rende necessario in casi di particolari di comportamenti particolarmente, diciamo, come dire, adesso non trovo la parola, ma insomma siamo capiti, no? Nel caso in cui di manifestazione di follia molto forte è necessario chiudere. Ecco, a questo proposito Pinel di fatto cerca, libera appunto, come dicevo prima, i fogli dalle catene e cerca di utilizzare il meno possibile i mezzi di costrizione. Però i mezzi di costrizione continuano ad essere usati, diciamo, in generale nelle strutture di ricovero per fogli. Ecco, anche qui volevo semplicemente, sempre che non la questione non diventi troppo noiosa, di tutti voi, ecco, fare un'altra piccola lettura su questo aspetto, perché alcuni tra i mezzi di contenzione più diffusi agli inizi del XIX secolo erano di questo tipo. Va bene, il sistema più semplice era la reclusione in una stanza, e d'accordo, senza luce, completamente dipinta di nero. Oppure, per esempio, una cesta di vigni lunga quanto un uomo, sul fondo della quale era steso un materasso. Dotata di un coperchio aperto in corrispondenza della testa del malato, veniva chiusa, condannando il malcapitato alla più completa immobilità. Un altro mezzo, diciamo, che era usato in alcuni studi tedeschi, era uno speciale armadio con un'apertura ad un'estremità nella quale veniva rinchiuso l'alienato, lasciando fuoriuscire soltanto il capo. Una variante di questo principio era costituita dal sacco di tela cerata, lungo, come si conviene, poco più di un uomo. L'alienato diveniva richiuso mettendo poi un laccio al di sopra della sua testa. Altrettanto bizzarra, anche se meno pericolosa, era la consuetudine in certi manicomi tedeschi di vincolare una corda tesa dal soffitto al pavimento il malato già contenuto con una camicia di forza, e potremmo continuare così, insomma. Allora, questo era, diciamo, il punto. Quindi, insomma, Pinel rifiuta in qualche modo questi anche mezzi di costrizione e cerca di applicare il più possibile il sistema che era stato sperimentato inizialmente in Inghilterra del no restraint, che appunto significa non compressione. Vabbè, mi fermo qui riguardo a Pinel. Diciamo solo che questa ipotesi, non solo terapeutica, ma anche appunto di nascita di una disciplina, comincia ben presto a mostrare i suoi limiti. E il limite principale qual è? Il limite principale è che in realtà ci si rende conto che la diffusione dei manicomi non fa altro che creare cronici, perché in realtà poi la capacità di intervento terapeutica era certamente pari. Per cui, per semplificare, diciamo che avviene un fenomeno di questo tipo, cioè più manicomi, anche studiati, pensati, ideali, come volete, no? Perché naturalmente soprattutto se, come dicevo prima, il manicomio è la terapia, è chiaro che si sviluppa tutto un dibattito sulla necessità di realizzare il tipo ideale di manicomio. Ma in realtà più i manicomi si diffondono e più cresce l'indice di cronicità. E questo naturalmente non è soltanto un problema, diciamo così, di tipo di fallimento di un'idea, è anche un problema economico, perché poi tutto questo arriva a dei costi che devono essere, diciamo così, sostenuti dal collettivo. E quindi, insomma, diciamo, per stare sempre sul dibattito europeo, intorno alla metà dell'Ottocento, preso atto di questa situazione, cominciano a levarsi con forza, diciamo, le voci di critica, no? Non soltanto dal punto di vista umanitario, ma anche proprio dal punto di vista dell'efficacia di questo tipo di soluzione. E all'interno, diciamo, di questo dibattito si inserisce un'altra voce importante, questa volta quella di un medico tedesco, Gesinger, non so se la pronuncia corretta, comunque il quale, diciamo, in qualche modo segna un ulteriore passaggio in avanti della psichiatria europea. Appunto, Gesinger prende atto che il manicomio non funziona. E lui sostanzialmente pone questo tipo di obiezione. Cioè, cerca in tutti i modi di ricondurre alla centralità del medico, del terapeuta, la possibilità di intervenire sulla malattia, cioè la possibilità di curare il corpo. Dice, vabbè, Pinel era partito appunto con questo obiettivo della curabilità del pollice, non ci siamo riusciti perché abbiamo appunto pensato che fosse il luogo, non soltanto l'elemento fondamentale, che da lì partisse tutto. No, bisogna tornare alla centralità del medico. Lui dice, non esistono buoni manicomi o cattivi manicomi, esistono buoni medici o cattivi medici. E quindi comincia, per esempio, lui era direttore, che pare, adesso non ricordo se del manicomio di quale città tedesca, del manicomio di Dresda o di un'altra, sta di fatto che, insomma, in Germania era pronto un progetto per realizzare un manicomio, diciamo, modello, viene subito bloccato, no? Perché l'eco, diciamo, della voce di Gresinger ha un forte impatto. E allora lui propone un'altra cosa, cioè intanto lui dice, appunto, la malattia mentale in realtà ha un andamento di questo tipo, cioè un andamento in qualche misura ciclico. Esistono delle fasi molto acute, per il resto, insomma, no, la malattia può anche, diciamo così, se non cronicista, può anche mantenersi a degli standard socialmente accettabili. Quindi noi, il medico, noi psichiatri, dobbiamo intervenire appunto sulle acuzie, dobbiamo intervenire soltanto nelle fasi in cui la follia evidentemente diventa un problema in primo luogo per il malato e naturalmente poi contestualmente in secondo luogo per il contesto che lo circonda. E quindi lui propone il fatto di realizzare dei piccoli, diciamo così, dei piccoli manicomi urbani. Ecco, una cosa che scusate, avevo tralasciato di dire, adesso parlando di un attimo dopo, cioè che nel disegno pinelliano la collocazione del manicomio ideale è in campagna, cioè è fuori dal quartiere, è in campagna, proprio per quel discorso dell'isolamento e perché poi tra le pratiche lavorative quella del lavoro agricolo viene considerata appunto in questo senso come no, la più adatta a recuperare, diciamo così, l'equilibrio del mare. Ecco, Grisinger rovescia questa cosa, no, il manicomio deve tornare nelle città, cioè deve tornare all'interno del contesto in cui in qualche modo il mare si sviluppa. E questo anche perché deve essere possibile, visto che appunto no, l'efficacia della terapia si deve misurare soprattutto nelle fasi acute, l'intervento deve essere tempestivo. Quindi no, la famiglia deve essere in grado di intercettare immediatamente il medico deve poter intervenire, insomma tutto questo deve essere fatto all'interno del contesto urbano. Lui dice certo, magari in quartieri non proprio centrali, magari in quartieri diciamo no, un po' periferici, insomma dove per creare meno disturbo possibile no, alla cittadinanza, però tutto questo deve essere fatto all'interno della città. E quindi pensa a delle strutture da 60-100 posti al massimo. Chiaramente, se questa è appunto la visione di Grisinger, in qualche modo si ritorna un po' all'origine, cioè così come Pinelli aveva detto, vabbè, è necessario separare, cioè creare dei luoghi specifici per la follia, Grisinger dice, vabbè, ma è possibile anche a questo punto creare dei reparti, ma magari anche vicino agli ospedali normali, insomma, no? Perché se queste reparti sono specializzate per questo, va bene così. E in qualche modo, diciamo, da questo ulteriore passaggio che si colloca ormai in un clima diverso, perché siamo appunto già a metà dell'Ottocento, in cui contemporaneamente va avanti e si approfondisce sempre più l'approccio clinico, anatomico, no? Che risente appunto il clima positivista, nascono anche in conseguenza di questo le prime cliniche psichiatriche, le prime cliniche, diciamo, universitarie psichiatriche. Ora, scusate, vediamo un po'. Sì, allora, veniamo poi a come questo si manifesta qui, no? Perché sennò, ecco, dicevo, torniamo quindi al nostro manicomio che era nato nel 1824. Ecco, più o meno nel periodo che io ho analizzato, cioè quindi la fine dell'Ottocento, gli inizi del Novecento, intanto cominciamo col dire che la struttura del manicomio di Perugia si è modificata completamente. Il manicomio si è allargato ed ha conquistato una struttura, diciamo, a doppio villaggio, che è quella che ha ancora, pur non essendo più, nel senso che sono stati acquistati nuovi terreni nell'area dell'attuale via del Giochetto, quel villaggio è stato assegnato alle donne, mentre l'altra parte è rimasta sempre ai nonni. E la caratteristica appunto questa è il doppio villaggio. Ci sono numerose, diciamo, testimonianze, scritti, opuscoli dell'epoca, naturalmente gli autori sono psichiatri, quindi se non gli stessi psichiatri che lavorano nel manicomio di Perugia, sono comunque loro colleghi che vengono in visita e naturalmente sono tutte resoconti esaltanti, insomma, si esalta soprattutto, ma in effetti evidentemente per l'epoca il manicomio di Perugia con questa struttura aperta, no, il cancello che veniva aperto all'alba, che veniva chiuso soltanto alle due di notte, cioè mantiene la possibilità, diciamo così, per gli alienati di muoversi, di lavorare, insomma, perché poi non c'è soltanto una colonia agricola, c'è anche una colonia industriale, c'è la possibilità di fare determinati lavori, lavanderie, tutte cose di questo tipo. E allora dicevo, appunto, è in questo tipo di, in questo luogo che trovano, che vengono ricoverati i pellagrosi umbri, ma non solo, nel senso che il manicomio era gestito dalla provincia, cioè la provincia lo gestisce direttamente a partire dal 1900, prima c'era ancora una congregazione, ma di fatto insomma se ne occupava dal punto di vista amministrativo. cerchiamo di vedere un po' come l'iter proprio, no? In generale la persona ricoverata in manicomio arriva con una documentazione, una modula informativa, si è redatta, c'è cioè, un medico condotto in cui vengono segnalate alcune caratteristiche, nome, cognome, età, sesso, stato civile, via dicendo, e si cerca di fare una prima diagnosi e di indicare anche quali possono essere state le cause, diciamo così, che hanno portato alla follia. Dopodiché si passa all'esame da parte, diciamo, dei medici dell'ospedale psichiatrico, che naturalmente comincia a fare una serie, dicevo, di misurazioni, no? La prima cosa è la misurazione. E poi si va alla ricerca delle cosiddette note antropologiche degenerative. Anche qui, se posso velocemente leggere, perché anche questo mi sembra molto interessante per dare una testimonianza. Questo che parla è Cesare Agostini, che è il direttore dell'ospedale psichiatrico tra la fine dell'Ottocento e primi del Novecento. Allora, scrive Agostini, questo è il suo manuale di psichiatria pubblicato nel 1897. Compiuto l'esame antropometrico, occorre ricercare nel capo, nel tronco, negli atti, le cosiddette note antropologiche degenerative, che sono di indiscutibile importanza per determinare con la loro molteplicità e gravità il grado dell'anomalia costituzionale del malato in esame. Questi caratteri di irregolarità organica, accompagnati da difettoso sviluppo delle facoltà psichiche, stanno a rappresentare una deviazione dell'evoluzione dell'individuo e un ritorno ai gradini inferiori della specie, per cui un degenerato è un essere anormale in quanto riproduce in grembo ad una società pervenuta con maggiore incivilimento le note di inferiorità fisica e psichica proprie dei tipi primitivi. Insieme alla perdita delle qualità morfologiche, il degenerato perde le sue qualità biologiche, morali e diventa quindi un essere sociale. Allora, siamo appunto, no? In pieno clima, diciamo, positivista, fin troppo evidente l'influenza lombrosiana. Aggiungo quest'altra notazione molto anche, insomma così, che suggerisce un sorriso amaro. Dopo questo, no, si passa, per esempio, in esame naturalmente le condizioni anche lo stato civile, per esempio del malato. Sentite questo: lo stato civile può ritenersi che eserciti qualche influenza nell'esercitare le psicopatie, in quanto lo stato di celibato, importando di solito un'esistenza più irregolare o proprio agli stravizi di ogni genere, dà un numero di pazzi molto maggiore che nei poliziotti. Ugualmente, con maggiore frequenza, si riscontra la follia nei vedovi e nei divorziati. Ecco, tanto per dire. Allora, queste considerazioni non riguardano, questo tipo di esame non riguarda naturalmente soltanto i Pellagrossi, questo riguarda tutti i ricoverati a Santa Margherita. Se poi guardiamo i Pellagrossi, naturalmente questo assume una connotazione ancora più amara, perché chi sono? Sono fondamentalmente contadini, mezzadri, ma anche braccianti, sono anche comunque figure, diciamo così, intermedie, e che arrivano, come dicevo all'inizio, in condizioni fortemente compromesse, insomma, come poi dimostra l'altro indice di mortalità. Allora, io allora tentai, ma senza, diciamo, riuscire in questo, no? Una domanda che mi hanno fatto allora era questa, cioè in che misura la pellagra poteva essere considerata rispetto a quei numeri, a quel fenomeno che avevo studiato, effettivamente la causa della follia, o in che misura, diciamo così, poteva affiancarsi, no? a fenomeni comunque preesistenti. Ecco, questo, diciamo, rispetto a questo non posso dire di aver raggiunto, diciamo, una conclusione. Certamente è chiaro che se studiando la cartella clinica io trovavo una diagnosi di tipo imbecillità e pellagra, era probabile appunto, no, che i due fenomeni fossero l'uno accanto all'altro, no? Oppure, ecco. Ma di certo, per esempio, leggendo tra le cosiddette cause occasionali, perché poi in questo clima così molto rigidamente classificatorio i nostri psichiatri erano molto attenti, no, a distinguere per esempio tra le cause predisponenti e le cause, per esempio lo stato civile potrebbe essere una causa predisponente, no? E le cause invece occasionali, quelle che poi determinavano l'esplosione del fenomeno, no? Ecco, se noi guardiamo un po' alle cause occasionali, anche nella stesura della modula, cioè del documento preventivo che veniva, come dicevo, steso dai 15 condotti, noi vediamo proprio che il quadro che viene fuori è prevalentemente quello della miseria, no? Perché poi ecco, si poteva impazzire certamente per la perdita di un caro, per una delusione d'amore, ma insomma anche per la morte di una vacca, ecco, tanto per dire, perché chiaramente la perdita di una vacca significava una perdita economica notevolissima. Quindi il quadro, diciamo così, che viene fuori è un quadro di questo tipo. E che dentro la struttura se trova, può trovare in qualche modo una sorta di tranquillità, non trova però nessuna terapia efficace. Nel manicomio di Perugia, almeno diciamo dalle fonti che ho potuto verificare, tranne casi eccezionali, si praticava molto poco insomma la contenzione, no? Era in uso tutto il modello del non-restraint. Però poi si praticava tutta una serie di terapie, diciamo di fatto abbastanza inutili, come per esempio l'idroterapia, no? Venivano fatti bagni o docce, spesso a sorpresa, no? Per esempio, oppure delle elettrostimolazioni, una sorta diciamo di anticipazione dell'elettroshock, e poi adesso insomma, e soprattutto, e poi vabbè devono somministrare, non so, vuol dire gli ipnotici piuttosto gli eccitanti, insomma questo, ma insomma tutto questo aveva abbattuto. E invece si puntava molto, dicevo, sull'aspetto morale. Aspetto morale in quella accezione che dicevo prima, cioè vediamo certamente, se noi andiamo a vedere gli scritti tanto di Agostini che ho nominato quanto di Roberto Adriani, che invece è lo psichiatra che lo precede alla direzione del manicomio, appunto, perché poi tutti questi psichiatri sono stati diciamo intitolati diversi padiglioni, quindi non so quando magari parlerete adesso, non so più specificamente, nel comunale a Perugia nel momento della chiusura, no? C'è il padiglione Adriani, piuttosto che Agostini, Ozzurri, questi sono tutti i direttori che si sono succeduti appunto a partire dal 1824 in avanti. Ecco, se noi prendiamo questi scritti vediamo chiaramente che non c'è, quando si parla di cura morale certamente non si parla di suggestionare, no, di parlare, di avere dei colloqui diciamo con il malato, perché si dice il pazzo è pazzo. Dico questo perché in qualche misura, per esempio in Inghilterra, una pratica di questo tipo si era sviluppata, una sorta di fenomeno diciamo di questo tipo. Qui no, insomma, la cura morale è quella che dicevamo, cioè se tu ti comporti bene sarai premiato, se tu ti comporti male sarai premiato. Ma poi comunque, ripeto, l'elemento fondamentale è quello del lavoro, perché tra l'altro il lavoro consentiva al ricoverato anche di poter disporre non soltanto appunto di applicarsi nel lavoro, ma poter disporre anche di una certa somma di denaro, insomma, questo naturalmente poi aveva una ricaduta importante, diciamo così, anche dal punto di vista economico. Ecco, questo è più o meno, diciamo così, il quadro. Dalla Pellaga, e qua magari concludo se c'è qualche domanda, non lo so, dalla Pellaga certamente non si esce attraverso l'impegno psichiatrico. Insomma. Il fenomeno, come dicevo, comincia già a scemare insomma, intorno agli anni 10 e poi scompare, di fatto scompare, perché cambiano le condizioni di vita nelle campagne, perché anche le campagne mezzadrigli dell'Umbria conoscono quella che viene definita rivoluzione foraggera, seppur in ritardo, cioè si introducono appunto quelle condizioni, si spezza quella rotazione le palpebre che dicevamo all'inizio, che ormai si è del frumento, queste colture, no? Per la prima volta trasformano quella che era un conflitto, cioè tra l'agricoltura e l'allevamento, in un circolo, da circolo vizioso sempre a circolo virtuoso, perché sono appunto colture che non soltanto restituiscono humus al terreno, ma vengono utilizzate anche come alimento per gli animali, quali producono più concimi di adicento, e insomma di fatto migliorano le condizioni e migliorano le condizioni alimentari. Non dimentichiamo che poi ci sono state le lotte contadine, questo è un altro aspetto fondamentale. Insomma, è questo l'elemento che progressivamente fa venire meno la malattia, non certamente, no? E nonostante diciamo questo, però, se noi andiamo a vedere veramente in questo momento, per concludere, se lo ritrovo, il giudizio che dà Cesare Agostini della scomparsa della malattia è un giudizio invece che vorrebbe, scusate, noi vediamo se lo trovo, che poteva essere utile per finire, insomma, una sorta utilizzando un metodo come quello del manicomio, lui fa parlato del fatto che il manicomio era utilizzato come soluzione al problema, ma se quello che dovrebbe essere soluzione al problema crea un problema di qualche telefono, evidentemente non ci siamo come tentativo di risoluzione. Poi gli ospedali generali francesi, utilizzati come delle discariche, delle patrimonie, insomma, dove venivano a mandare tutti gli elementi che la società immetteva in certi circuiti di deviante, e poi per risolvere questo problema, appunto per poter controllare, per poter mantenere il suo ordine meglio, ripensavano tutti, non a caso poi fuori dalla città, comunque anche l'emarginazione, il margine che Sorrentino parlava, appunto per comprendere una certa cosa dobbiamo fare, dobbiamo guardare le cose eccellenti, le strade, le vie di comunicazione, oppure bisogna guardare i modi al di fuori, ai margini meno visibili. E dunque gli intestati, il mostra di cui parlava la Marella, i profanatori, i dissennati, eccetera, eccetera, cosa vengono fatti? Non per essere mandati negli ospedali generali, i ladri, i delinquenti, chiunque. Tutta questa mescolanza di diversi criteri, e l'ultimo, appunto, da collegare alla formazione del. Di quest'etica del lavoro che riguarda tutta la cultura che va dal 700 in poi, legata alla povertà e follia. Prima di quella che si può chiamare l'età classica, la follia non era considerata così superficialmente, aveva una sua rilevanza e i soggetti che appunto venivano definiti folli prima erano visti come qualcosa di sacro, poi con la perdita della classica vengono considerati devianti, improduttivi, e quindi da mettere insieme a tutta una serie di altre classi che erano improduttive, che non potevano lavorare, che non si adattavano a questa etica, e quindi ovviamente questo non era intendere come che il fatto che la cultura della classica volesse far produrre tutti, volesse mettere a produrre tutti perché era una visione degli arricchiti. Almeno secondo un po' questo viene fatto per mantenere l'ordine nella società, era il modo che aveva quel certo tipo di potere di organizzare una certa società e di controllarla con il minimo sforzo. Infatti il lavoro è una cosa accanto alle altre, per fare esempio delle scuole, di come appunto si muove la pedagogia, quello che io faceva gli esempi dei militari cui veniva insegnato come colonizzare i movimenti delle braccia per impugnare il fucile, eccetera, eccetera. Quindi mi chiedi se qualcuno vuole approfondire, se no chiudiamo qui. Ci sono domande? No, io semmai l'unica cosa, ecco, forse tra per dare un po', anche spezzare un po' una piccola lancia in favore, no? Anche comunque di questi medici, anche se naturalmente con posizioni diverse, per esempio tra quelli che citavo prima, sicuramente più sensibile da questo punto di vista Adriani, meno Agostini, più l'ombrosiano Agostini, cioè più convinto che la causa stia in questo mais guasco, allora si diceva, no? E più sensibile invece ai rapporti di produzione Adriani, per cui parla, vabbè, della necessità di risanare le campagne, insomma di migliorare le condizioni igieniche. Ecco, non è che la questione sociale fosse completamente rimossa, no? Però in qualche modo io credo che era il problema, è che comunque si trovavano, no, in una situazione, diciamo, di difficoltà, nel senso che poi comunque questo tipo di intervento non poteva competere. Quindi da un lato c'era questo, e nello stesso tempo c'era anche però, ecco, la necessità di ribadire un proprio ruolo, no? Che era quello appunto dello psichiatra, insomma, che da poco aveva, diciamo, acquisito il suo status, cioè il suo riconoscimento, no? Quindi è chiaro che era difficile in quella fase ipotizzare che qualcuno, no, negasse completamente la possibilità comunque di intervenire, perché ciò avrebbe significato in qualche modo negare il proprio ruolo, in fondo, insomma, no? Questo mi sembra, però è chiaro, insomma, quindi non è che non ci fosse per nulla, no? È che era l'impianto generale, diciamo, la risposta in generale che le istituzioni davano, che era di questo tipo, insomma, che costringeva questi poveracci, insomma, a un destino di questo tipo. Perché poi, ecco, tu dicevi a proposito della devianza, no? Questo con il della croce funzionava poco, perché in realtà no, erano veramente, insomma, persone che non è che creassero particolari in cui prevale appunto questo quadro qua, questo quadro. C'è una statistica, mi interessava la riflessione che faceva prima Giacomo, il rapporto tra povertà e appunto magari i ricoverati. C'è una statistica del centro medio che anche il ricoverato, cioè sempre c'erano dei casi di i borghesi, i nostri borghesi, i sottotitoli, erano ricoverati o invece venivano segregati, tra virgolette, in forza al comune? Allora, direttamente non posso rispondere in questo senso, che io la ricerca che feci allora era mirata, diciamo, sui i ricoverati con una diagnosi in qualche modo legata alla pellagra, e lì diciamo il 90% erano delle campagne. Quindi io non ho esaminato, diciamo, la documentazione clinica l'ho esaminata soltanto relativamente ai casi, laddove non c'era questo non ho conteggiato. Però fondamentalmente la intuizione sua, diciamo, è giusta, cioè di fatto il manicomio era prevalentemente riservato in qualche misura ai ceti bassi, Comunque, no, questo è il punto, diciamo, quindi in questo senso. No, perché questo è interessante anche un discorso che faceva ad esempio io ieri del soggetto del diritto, perché alla fine il soggetto del diritto è un soggetto che è anche un soggetto normale dal punto di vista sociologico. Va bene, allora se nessuno niente altro da aggiungere ci sciogliamo.